Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Ultimo giro di boa per il nostro programma che entra nella terz'ultima puntata stagionale. Giro di boa che prende le mosse dalla storia di un giovane che ha scelto di tornare in Italia dopo anni di lavoro nel settore accademico in Francia e in Svizzera. Un'ottima occasione per fare il punto sul noto programma Rita Levi Montalcini per il rientro dei cervelli, di cui si parla molto ma che è sempre bene approfondire per comprenderne aspetti positivi e criticità. Il menù odierno è come sempre molto ricco, tornano ad esempio anche preziosi consigli di Emanuela Verrecchia sulle opportunità professionali in Cina. Adelante! Giovani Talenti. La frase della settimana è copyright dell'ex presidente dell'ANM Piercamillo Davigo. Parlando agli studenti universitari ha detto: se sapete le lingue, l'alternativa è andare a studiare all'estero ed emigrare. Mi rendo conto di dire una cosa disperata, ma questa è la situazione. Così Davigo, secondo cui il 93% dei dottori in giurisprudenza fanno gli avvocati, la metà di loro guadagnando meno che in un call center. È un mestiere che si è proletarizzato, dice. Per conquistare uno dei 250 posti da magistrato si impiegano anni e anni di gavetta. Una volta 28 anni potevi già essere magistrato, oggi se ti va bene ci arrivi a 32-33 e già stanco. Se siete pronti, questa è la strada che vi aspetta, altrimenti c'è l'estero, dice Davigo. Non dimentichiamo che l'Italia è maglia nera d'Europa per numero di giovani inattivi, seconda per il gap tra uomini e donne che lavorano, oltre a essere terza per il più basso numero di occupati e reddito lordo disponibile per le famiglie. E quanto emerge dal social scoreboard della Commissione Europea per il presidente Istat alleva: tra il 2000 e il 2016 la produttività totale della penisola è diminuita del 5%, dati su cui pesa, spiega alleva, anche la non soddisfacente valorizzazione del capitale umano, in particolare dei giovani. Non esageriamo però con il pessimismo, perché c'è anche chi in Italia ha scelto di tornare dopo avervi trovato motivi di attrattività. Mi trovavo in Francia, a Lione, con l'ennesimo contratto post-dottorato, ho fatto domanda un po' dappertutto e fra i vari bandi a disposizione c'era appunto questo bando Rita Levi Montalcini. Daniele Santarelli, 37 anni, è un ricercatore rientrato grazie al programma Rita Levi Montalcini. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. In apertura subito gli ultimi dati dell'anagrafe italiani estero, ottenuti in esclusiva da Giovani Talenti. Allo scorso dicembre erano 4.973.000 connazionali espatriati e residenti oltre confine, in crescita di circa 160.000 unità rispetto all'anno precedente. E ora l'importante chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sui requisiti necessari per accedere alle nuove agevolazioni per i cosiddetti lavoratori impatriati, coloro che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgervi un'attività lavorativa. Per loro è previsto un regime di imponibilità ridotta dei redditi da lavoro dipendente, passata dal 70 al 50%, ed estesa anche ai redditi da lavoro autonomo. È inoltre prevista una tassazione agevolata per i redditi da lavoro dipendente autonomo prodotti per lo svolgimento dell'attività di docenza e ricerca. Infine, fate bene attenzione, i lavoratori che sono stati residenti in Italia e che dopo essersi trasferiti all'estero vi hanno fatto ritorno entro il 31 dicembre 2015 possono fruire di incentivi fiscali sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente autonomo o di impresa avviate qui. Possono dunque richiedere la tassazione dei redditi su una base imponibile del 70% per il 2016 e del 50% per gli anni 2017-2020. Tutte le info su agenzieentrate.gov.it. Arrivano però anche paletti per gli sconti fiscali e cervelli che rientrano in Italia. Secondo un emendamento alla manovra passato in commissione bilancio alla Camera, per beneficiare di una riduzione del 30% dell'imponibile occorre che la residenza in Italia sia mantenuta per almeno 2 anni. Voltiamo pagina. In Italia i giovani inattivi sono scesi a 2,2 milioni nel 2016 con un'incidenza che passa al 24%, lo rileva l'Istat. Nonostante il calo, si tratta però ancora della quota più elevata nell'Unione Europea. Sempre secondo l'Istat, il titolo di istruzione sembra essere una questione di eredità in Italia. Il 40% dei figli in famiglie con un livello di istruzione basso non va oltre la licenza media, mentre poco più di 1 su 10 riesce a ottenere un titolo universitario. Campania al terzo posto dopo Lombardia e Lazio nella classifica delle regioni italiane per numero di laureati e numero di occupati laureati. Nel contempo però è l'area del meridione che detiene il record nazionale di coloro che, conclusa l'università, hanno fatto la valigia e si sono impiegati altrove. Su oltre 32.000 persone con un titolo di studio accademico, il 23% ha trovato un posto fuori dai confini in cui si è formato e un 3% dei campani è andato all'estero. Lo si legge nel report dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro. La Commissione Europea ha proposto un budget da 340 milioni in 3 anni per consolidare il Corpo Europeo di Solidarietà, che permetterà a 100.000 giovani da qui al 2020 di vivere esperienze di volontariato in un altro paese comunitario, oltre 30.000 persone già iscritte al programma. Chiudiamo con una segnalazione sull'Europa per i giovani, ciclo di incontri organizzato dall'Ufficio di Informazione a Milano dell'Europarlamento. Informazioni utili in arrivo su opportunità e mobilità nel continente, come ci spiega il direttore Bruno Marasà. Sono una serie di incontri che promuoviamo nel nord Italia sui giovani e con i giovani per parlare delle opportunità di studio, di lavoro, di mobilità all'interno dell'Unione Europea. Ci sono molti programmi al riguardo che noi presentiamo in queste occasioni e ne abbiamo fatti già due di questi incontri a Venezia e a Bologna. Continueremo con la prossima tappa il 9 giugno a Modena e il 30 giugno saremo a Verona, ma da settembre in poi ci ritroveremo con incontri simili a Milano, a Mantova e in altre città della Lombardia. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci mantiene coi piedi ben ancorati in Italia e ci fa riflettere sul perché del rientro nella penisola nel settore accademico. Nome: Daniele. Cognome: Santarelli. Età: 37 anni. Città di origine: provincia di Livorno. Studi: laurea in lettere, poi un dottorato in storia. Anno in cui sei tornato in Italia: all'inizio del 2015. Per andare dove? Presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Manvitelli. Perché? Perché avevo vinto il programma Rita Levi Montalcini. Quale lavoro svolge attualmente? Sono ricercatore in storia moderna. Dove? A Santa Maria Capovetere. Resterai? Penso di sì. Il sistema accademico italiano, almeno per quanto riguarda l'area umanistico-sociale, offre possibilità scarse o nulle di carriera ai candidati non locali, cioè a quei giovani studiosi che non hanno un forte radicamento in una sede universitaria. Molti, troppi, svolgono tutta la loro carriera nella stessa sede, facendo la fila in attesa del proprio turno, come in un supermercato. Così Daniele denunci l'immobilismo del nostro sistema accademico. Chi te l'ha fatto fare allora di tornare in questo supermercato? Diciamo che era un periodo che mi trovavo in Francia, a Lione, con l'ennesimo contratto post-dottorato. Ho fatto domanda un po' dappertutto e fra i vari bandi a disposizione c'era appunto questo bando Rita Levi Montalcini. E adesso andiamo, a parlarne. Riavvolgiamo il nastro, studia alla Facoltà di Lettere di Pisa. Il mondo spinge sempre più l'acceleratore su scienze e tecnologie. Perché una scelta così umanistica? Io ho avuto sempre passione fin dal liceo per le discipline umanistiche e poi soprattutto ho sempre avuto fiducia nella capacità delle discipline umanistiche di rinnovarsi. Da 1 a 10, il tuo voto all'insegnamento accademico in Italia? Non posso dare più di 6. Cosa ti spinge a proseguire con un dottorato, questa volta a Padova, la tua carriera? Diciamo che volevo approfondire il lavoro della mia tesi di laurea e proseguire, diciamo, nel mondo della ricerca, e volevo anche approfittare del dottorato per andare all'estero. Infatti durante il dottorato... Infatti, no, ci arriviamo. Sì. Infatti sì. Parti per la Francia. Come e soprattutto sì. Che ambiente di ricerca scopri oltre confine? Il primo periodo in Francia venne fatto durante il dottorato, cioè tra la fine del 2004 e la fine del 2005. Poi rientrai a Padova giusto gli ultimi mesi per discutere la tesi di dottorato. Trovai un ambiente un pochino più dinamico, in cui si poteva discutere un po' di più, in cui ci si poteva confrontare anche con studiosi che avevano avuto altre esperienze rispetto alla mia, e quindi un ambiente arricchente. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Appena conseguito il titolo di dottore di ricerca non ho potuto far altro che tornare a guardare all'estero, perché in Italia non c'erano oggettivamente prospettive. Noti con amarezza. A cosa avresti potuto ambire nella penisola? Credo proprio a niente, assolutamente a niente. Tra l'altro anche le possibilità nelle scuole erano bloccate, all'epoca c'erano le SIS che furono abolite poco dopo la fine del mio dottorato, e ci fu anche un periodo in cui non era possibile, tra il 2007, 2008 e 2011, abilitarsi per insegnare nelle scuole. Allora, alla fine poi vai all'estero, insegni tra Bordeaux, Ginevra e Lione, con quali incarichi? Prima ho avuto un contratto post-dottorato a Lione in un laboratorio del CNRS. Poi ho avuto un assegno in Svizzera finanziato dalla Confederazione Svizzera. Successivamente sono stato lettore italiano e insegnante al contratto di lingua e civiltà italiana a Bordeaux, e poi sono di nuovo tornato a Lione sempre con un contratto postdottorale. Lo hai spiegato tu stesso, grazie al bando Rita Levi Montalcini sì. Prendi la decisione di tornare in Italia, lo definisci una delle pochissime finestre disponibili per entrare da dall'estero, ti candidi, lo vinci, ma è solo l'inizio. Nonostante infatti il contratto, punti organico e fondi di ricerca siano a totale carico del Ministero, quali ostacoli e resistenze hai trovato? Diciamo che a livello locale, nei vari dipartimenti, mi sono sentito dire dei dinieghi che per me in quel momento lì erano inspiegabili, essendo fuori dall'Italia da molto tempo, e mi era stato detto che il mio reclutamento comunque avrebbe impedito l'avanzamento di carriera sia di docenti già interni che magari ambivano da ricercatore a diventare associato o da associato ordinario, e poi soprattutto avrebbe impedito l'inserimento di nuove leve che in genere erano ricercatori già presenti localmente. Infatti, Daniele, che fai? Salti la fila? Quanti rifiuti hai sperimentato? Sì, diversi, molti. E alla fine dove sei approdato e con quali responsabilità ora? Sono approdato al Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli, e sono ricercatore in storia moderna. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Un cordiale saluto da Armando Torno. Musica Maestro di questa settimana avrà come ospite il soprano Olga Peretiatko. Sarò qui con voi a raccontare dei nuovi progetti, del nuovo CD e un po' della mia vita. Здравствуйте всем, оставайтесь с нами. A risentirci dunque domani sera alle 21:15. Un cordiale saluto da Armando Torno. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Daniele Santarelli, ricercatore controesodato in Italia grazie al programma Rita Levi Montalcini, dopo diversi anni trascorsi nel mondo accademico estero tra Francia e Svizzera. Daniele ce l'ha fatta a tornare superando, pensate, le resistenze di un sistema universitario che non lo ha accolto con favore, nonostante il suo rientro sia stato finanziato e organizzato dallo stesso ministero. Dall'interno osserva un mondo accademico tricolore ancora troppo baronale, con rendite di posizione inattaccabili e un ricambio generazionale che nei fatti non funziona, in quanto alimentato col meccanismo della fila di attesa. La prima vittima alla fine è la meritocrazia. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Il tuo spirito ribelle lo manifesti anche attraverso il sito web Ereticopedia, che curi personalmente, nel quale prevedi spesso chi vincerà il tal concorso nella tal università. Alla luce di tutto quanto ci siamo detti, Daniele, cosa fare per uscire da questo impasse? Quali ricette potremmo applicare per migliorare la nostra università? Ereticopedia è un sito molto grande e ha una sezione dedicata ai concorsi universitari nel mio settore, quello della storia moderna, che è una sezione puramente informativa nella quale si pubblicano i bandi e le commissioni e i risultati dei vari concorsi, non è che si pronostica, però già nel momento in cui inserisco i vari concorsi, anche senza avere contatti con la sede locale che bandisce, posso immaginare che sia il vincitore. Ci sono passiamo alle ricette, Daniele. Le ricette, secondo me, aumentare i concorsi nazionali e diminuire i concorsi locali, e poi cercare di fare entrare chi è capace di competere a livello internazionale, quindi di portare fondi al dipartimento, a un dipartimento locale. L'Italia, Daniele, può essere salvata dai suoi talenti di rientro, e se sì, come? Sì, può essere salvata perché chi è andato all'estero si è messo in gioco, quindi ha una grande capacità di mettersi in gioco, e si è rientrato in Italia e anche in quel modo lì ha dimostrato le sue capacità di mettersi in gioco e di adattamento, oltre che un attaccamento verso l'Italia che è una cosa assolutamente da valorizzare. Ci raggiungerà in linea Daniele Livona, direttore presso la Direzione Generale per la Programmazione, Coordinamento e Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore al Ministero dell'Istruzione. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Dottor Livona, qual è il suo primo commento alla storia di Daniele Santarelli? Che è una storia che ovviamente rappresenta uno spaccato di quello che in alcune università può anche accadere, però dobbiamo fare attenzione che ci sono altrettanti giovani che sono rientrati che potrebbero avere anche delle storie, delle esperienze diverse rispetto a questa. Però non è paradossale che una persona, una risorsa con un background estero interamente di fatto a vostro carico trovi tali resistenze? È un caso isolato oppure ne succedono diversi? Beh, da quanto ho compreso, il dottor Santarelli ha iniziato il suo programma di ricerca come Levi-Montalcini nel 2015, quindi è anche importante evidenziare che è abbastanza recente il suo ritorno in Italia. La normativa prevede che comunque, se lui dovesse ottenere l'abilitazione scientifica nazionale, quindi quel concorso nazionale a cui faceva riferimento precedentemente, avrà la possibilità di essere inquadrato direttamente nel ruolo poi di professore associato nella stessa università, quindi questa è un'opportunità che comunque... Però il problema è chi l'ha rifiutato prima, nonostante fosse una risorsa da un background internazionale assolutamente a vostro carico. Questo è incredibile. Questo rientra anche nelle scelte che autonomamente alcune università probabilmente fanno in maniera non troppo virtuosa, probabilmente neanche pensando alla qualità della ricerca, esatto, che svolgono all'interno dei propri dipartimenti. Esatto. Questo purtroppo può capitare. Il Ministero sta cercando, in questi anni lo ha fatto in maniera molto significativa, di invertire questa tendenza, soprattutto non solo cofinanziando il rientro dei nostri giovani ricercatori, ma anche di stranieri che possono venire nella nostra università, ma soprattutto ancorando una parte significativa dei finanziamenti all'università in base alla qualità della ricerca che viene prodotta, che inevitabilmente è la qualità della ricerca dei singoli ricercatori. Non posso che fare un grande bocca al lupo su questo. Torniamo sul programma Rita Levi-Montalcini. E quanti ricercatori siete riusciti a far rientrare e con quali risultati? Levi-Montalcini in realtà è la prosecuzione del rientro dei cervelli, che è iniziato nel 2001 in Italia. Quindi ormai siamo a 17 anni quasi, diciamo, di avvio di questo programma. Annualmente il Ministero stanzia 5 milioni di euro per far rientrare 24 ricercatori nelle nostre università. Restano a lavorare in Italia poi? Ma guardi, noi abbiamo dei dati che ovviamente analizziamo di anno in anno per capire anche i miglioramenti che possiamo fare. Intanto è importante sottolineare che noi abbiamo circa 300 candidature per 24 posti, ormai queste candidature sono anche aumentate negli ultimi anni e fortunatamente abbiamo anche una quantità significativa di ricercatori che una volta rientrati in Italia poi vengono inquadrati in ruoli superiori all'interno dell'università. Le ultime statistiche relative all'ultimo triennio dicono che abbiamo complessivamente 25 ricercatori Montalcini che sono poi stati oggetto di chiamata diretta nel ruolo di professori associati dalle università italiane. Quali sono le condizioni di rientro che offrite a chi sceglie di tornare in Italia? Con riferimento specifico al bando Montalcini, le condizioni sono abbastanza semplici: l'aver ottenuto in ogni caso il titolo di dottore di ricerca da non più di 6 anni e svolgere un'attività di ricerca all'estero nell'arco, diciamo, di almeno un triennio. Dopodiché le persone si possono candidare, ripeto, sia gli italiani ma anche gli stranieri per venire direttamente da noi, e noi finanziamo non solo il contratto di ricercatore di tipo B, ovvero il cosiddetto ricercatore in TNU Track, ma finanziamo anche il progetto di ricerca, quindi l'attività di ricerca che il ricercatore andrà a fare nel corso del triennio. Prossimo bando l'anno prossimo, immagino? Prossimo bando dovrebbe essere alla fine di quest'anno, il precedente è uscito a dicembre del 2016, quindi penso che il prossimo sarà dicembre del 2017. Grazie a Daniele Livon, direttore presso il Ministero dell'Istruzione. E domanda di rito, l'ultima per Daniele Santarelli: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Allora, innanzitutto questo paese dovrebbe valorizzare un po' di più i giovani che tentano di rientrare, e ultimamente abbiamo avuto una delusione a causa della bocciatura di 2 emendamenti importanti in Commissione Bilancio, che erano stati il frutto di un dialogo tra il gruppo contro i lodati e le istituzioni parlamentari. Un giovane che vuole rientrare deve cercare di aver fiducia in se stesso, di essere autonomo il più possibile, di contare soprattutto sulle proprie forze, però senza sperare che altri gli risolvano la situazione. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Facciamo ritorno in Cina per i nostri consueti consigli mensili su come sfruttare al meglio le opportunità di carriera in Estremo Oriente. Lo facciamo come sempre con l'Ideogramma, rubrica a cura di Emanuela Verrecchia. Oggi Emanuela ci riporta nell'ambiente della ricerca in Estremo Oriente, questa volta nel settore industriale e alimentare. Protagonista della puntata di oggi è ancora una volta il biotech, settore inserito tra le 10 priorità del Made in China Plan 2025, di cui abbiamo più volte parlato nel corso dell'ideogramma. La volta scorsa abbiamo parlato di ricerca universitaria in Cina nel settore delle cellule staminali. Oggi parliamo invece di ricerca e sviluppo nel settore alimentare e ci spostiamo dalla ricerca universitaria alla ricerca a servizio dell'industria. La storia che raccontiamo è quella di Nicoletta Quaro, che a soli 30 anni è capo della ricerca ricerca e sviluppo dello stabilimento di Shanghai, di un'azienda italiana leader nella produzione di insaccati. Lavora per migliorare prodotti e processi di produzione in modo che soddisfino il mercato cinese mantenendo gli standard italiani. Nicoletta ha una laurea a pieni voti in biotecnologie alimentari all'Università di Pisa e all'Istituto Sant'Anna, un MBA alla BBS, la Bologna Business School, con un focus sull'industria alimentare, e un paio di stage e esperienze lavorative all'estero in multinazionali nel settore alimentare e dei beni di consumo. È arrivata in Cina un anno fa, ha trovato lavoro in Italia rispondendo a un annuncio su LinkedIn di un cacciatore di teste che cercava una figura junior, sì, ma con una formazione già altamente specializzata e un minimo di esperienza lavorativa nel settore. Il cinese non era un must, come spesso accade per figure particolarmente tecniche. Abbiamo chiesto a Nicoletta che consigli darebbe a un giovane che voglia venire a fare ricerca e sviluppo in Cina. Ecco la risposta: puntare a un'ottima preparazione tecnico-scientifica, meglio se in università con forte richiamo anche a livello internazionale e con un buon network, fare una o più esperienze lavorative o di studio all'estero prima di arrivare in Cina, e questo ormai è quasi un passaggio obbligato con le nuove regole sui visti, usare LinkedIn, seguire i job post, attivarsi e cercare opportunità lavorative di aziende con ricerca e sviluppo in Cina, sviluppare un network di cacciatori di teste e far circolare il proprio curriculum attraverso questi canali. Lo studio del cinese non è un must, ma sicuramente nella Cina di oggi aiuta parecchio. Per maggiori informazioni www.cinadifrontiera.com. Un motivo per restare o tornare. Da settembre verranno messi in campo 300 tutor per facilitare il rapporto tra i giovani e il mondo del lavoro, con l'obiettivo di far salire questo numero a 1000 per tutte le 5000 scuole superiori italiane. Lo ha detto il ministro del lavoro Poletti a proposito dell'alternanza scuola-lavoro. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. Aspettiamo dunque le vostre domande, idee, proposte, riflessioni, anche le vostre denunce. Per mettervi in contatto con noi è molto semplice, basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Cerchiamo storie di under 40 espatriati, under 40 controesodati nella penisola dopo anni all'estero, under 40 stranieri al lavoro in Italia e giovani studenti delle scuole superiori o universitari attualmente oltre confine. Se vi riconoscete in una di queste categorie, allora Giovani Talenti è la vostra trasmissione e per questo vi invitiamo a candidarvi scrivendoci a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.